Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Questa sera siamo puntualissimi. Buonasera ad Agostino Spolaore e buonasera come di consueto dal mio carissimo fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ben ritrovato a distanza di 24 ore. Sì, esatto, on the road sempre. Io non so se stasera sono più emozionato io o sei più emozionata lei. vediamo. Sono felicissimo di avere qui una cantante, prima di tutto una carissima amica, una splendida persona in tutti i sensi. Si chiama Marnit, benvenuta a Blue Radio Veneto. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao. Lasciami ancora qualche istante per la presentazione di questa nostra e vostra emittente e poi presenteremo anche una parte della tappezzeria della radio. E... Alessandro, vai, ve lo presentiamo subito. Buonasera a tutti. Alessandro Modenese, che è sempre piacevolmente presente qui nei nostri studi quando c'è da fare qualcosa che insomma di gran classe, di grande artista. Lui è un grande chitarrista, lo sapete già, l'abbiamo presentato tante volte, insomma, ed è venuto di nuovo questa sera ad accompagnare Marnit e Calvi. Allora, Blue Radio Veneto, le nostre frequenze 88.700 e 94.600 per la zona di Venezia, più che altro. E poi ancora i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms, e questa sera magari se ne volete mandare qualcuno alla nostra artista, sei... Rispondi, insomma. Sì, volentierissimo. Ecco, allora, vi ricordo, è il 346-23-20-033. Il programma si chiama, come sempre, come di consueto, Blue Time Live, fino alle 22.30 con Marnit Calvi. E poi ancora la potete trovare, anche se avete qualche, volete vedere qualche informazione, sul nostro sito. Abbiamo fatto una recensione, ma non trovate solo lei, trovate anche tutti gli altri artisti che via via si susseguono qui in questa emittente. Il nostro sito è www.blueradioveneto.it e lì ci potete anche ascoltare in streaming cliccando semplicemente su dove c'è scritto ascoltare la radio, quindi potete sentire in tutto il mondo, ci potete ascoltare. Abbiamo già avuto riscontri, magari stasera, che ne so, ti arriva una domanda dagli Stati Uniti, Manica, ma speriamo. Allora, ho detto tutto, mi sembra proprio di sì. Allora, rinnovo il mio benvenuto, Manita, questa... Grazie, io ringrazio te, ringrazio Maurizio, perché poi sono stata trovata da te, quindi sono... e mi hai invitato qui, quindi io ti ringrazio. E ringrazio anche Alessandro, che è stato gentilissimo. Lui è ormai fa parte di noi, insomma, è uno di noi, la nostra famiglia. Sì, a me è fatto piacere, tra virgolette, trovarti, perché ho trovato un artista con una voce splendida. Grazie. Le tue canzoni ce ne sono pochissime, sono solo tre, mi sembra. Mm-hmm. Che poi c'è quella in dialetto triestino anche che gira, se non sul so. Come video dici, sì, come video su YouTube. Ma comunque insomma questa sera cercheremo di ampliare queste canzoni, di far sentire questo tuo disco che si chiama semplicemente Marnit. Sì, e poi la prossima settimana sarà anche su iTunes, quindi saranno scaricabili tutte le canzoni del disco. Perfetto, quindi stasera è un'opportunità in più ancora per ascoltare questo disco. E nella copertina la trovate seduta in una bellissima poltrona rossa, un po' accovacciata. E come mai questa immagine? È un'immagine molto naturale, come se fossi a casa mia, che scrivo le canzoni, come succede. Allora ho voluto dare un'immagine reale di come poi sono io. Questo è anche il succo del disco? Sì, sì. È un succo del disco, se si può dire, confidenziale, ma in realtà in alcuni punti... è più è sottovoce, ma anche in alcuni punti anche gridato, se così sì, si perché può dire. Tu hai studiato canto moderno, però anche canto lirico. Sì, ho studiato alcuni anni di canto lirico e questo mi ha aiutato a creare le fondamenta tecniche per poi fare un po' quello che volevo. Sì. Allargare l'orizzonte, cioè si è partita da questi due punti di riferimento. Il disco ha qualche, tu giustamente canti con una voce in qualche momento delicata, in qualche mm-hmm. momento tiri fuori la grinta, quindi queste due componenti sono state fondamentali per la costruzione dell'album, che l'album sì. è stato costruito su di te praticamente, mm-hmm. sulla sì, tua sulla voce, mia vocalità, sulla tua vocalità. Ed è un è stato per me una strada nuova quella di scrivere i miei testi e di non interpretarli, perché io non credo che si interpreti la propria canzone, ma di raccontarle. Quindi la tecnica mi è servita per probabilmente per fare per sì, non mi sento più tanto sì, sì. Per comunicare le mie parole. Poi sei stata notata, può di tempo fa, quando ancora era in vita, da Bruno Lauzi con Canzoni di Confine. Com'è stato questo approccio, questo avvicinamento a un grande artista che purtroppo se n'è andato via troppo presto? Un'esperienza indimenticabile, perché beh, Bruno Lauzi è arrivato nella nostra regione perché era, si è interessato a, al Friuli Venezia Giulia, sì, in particolare alla, alla lingua friulana, alla lingua friulana, esatto. E anche se io non sapevo, pur avendo origini friulane, non sapevo il friulano, però ha coinvolto tutti gli artisti della mia regione e li ha raccolti in questo progetto dove cantavamo le sue canzoni, e lui stesso ha cantato alcune canzoni in friulano. Esattamente. In questa occasione ho avuto modo di essere anche inconsapevolmente, in parte, stimolata da, da, proprio da, dal mondo cantautorale. Lui era uno dei, dei cantautori che si ascoltavano comunque a casa mia, per cui fa parte della mia storia. E averlo lì in carne e ossa è stata un'emozione grandissima. In più era una persona molto semplice, e questo mi ha fatto capire come più un artista è grande, più proprio viene in fondo da una grande semplicità. Poi ti ha sostenuta, ti ha regalato un pezzo praticamente. Allora, il... ti ha fatto, ha portato una strada, ti ha fatto, ti ha delineato una strada. Purtroppo in seguito a, a questo, in seguito a questo progetto, purtroppo poi le, il progetto successivo, che era invece su di me, non è andato in porto a causa del, perché è venuto a mancare, certo, prima, certo. E quindi non si è mai realizzato concretamente. Però l'input, l'idea l'input c'era. Sì, e anche una certa influenza, insomma, sì, su chiaramente. Di me. E da lì ho cominciato pian piano a interessarmi a, a scrivere. Io in realtà ho sempre scritto le parole, però non ho mai pensato che potessero diventare canzoni, e non scrivevo liberamente. Da quell'esperienza ho cominciato invece a pensarmi in maniera diversa. Bene, giustamente. Ascoltiamo già qualcosa di tuo, Marnit. Qui io fremo da sentire qualcosa, anche se non è dal vivo, questa magari è la canzone che apre l'intero lavoro, questa Amaranto. Allora, su, su iTunes sarà la seconda traccia. Ah, ecco, cambia. Sì. Come mai questo cambiamento? Perché era una... era la mia idea iniziale, e quindi adesso che mi sento più forse padrona delle mie cose, ho preso una decisione io di mettere le canzoni, di spostare, perché secondo me era bello che ci fosse un'introduzione acustica e poi partisse. Questo è uno scoop allora, sì. C'è qualcosina di strumentale prima, insomma. No, acustica nel senso come tipo di sonorità, che è il pezzo che faccio dopo con dal vivo, sì. Va bene. Allora adesso ci ascoltiamo questa canzone che nel disco che ho io fisicamente qui in mano apre l'intero lavoro, l'intera opera. Sì, forse è meglio che lo spieghi, che sì, il certo. Progetto è nato prima come progetto regionale nel Friuli Venezia Giulia un anno fa, e quindi fisicamente esiste nel Friuli Venezia Giulia e nei negozi Musical Box, e adesso invece con iTunes sarà disponibile per tutti dalla prossima settimana. Ascoltiamo la canzone e poi magari ne parliamo di questa canzone, va bene? Amaranto. Pensieri intorno. Amaranto che affolla la mente, arriva col vento, mi prende e si parte. Il tempo che passa. Senso del gusto carino. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Amaranto, bellissima, c'è una frase che mi è piaciuta moltissimo, dice: Amaranto che affolla la mente, arriva il rituale tra me e la mia arte, una danza orgogliosa, un rosso flamenco, carezze di frasi rubate alla vita che faccio rinascere dalle mie dita. Complimenti, sei tu che scrivi le canzoni, vero? Sì, sì, i testi e anche quasi, quasi tutti sono miei nel disco. È un pezzo decisamente latinoamericano. Questa impostazione, volutamente questa impostazione, come mai hai impostato, hai voluto questo arrangiamento assieme allo staff del disco? Perché ti sei immedesimata in questo movimento decisamente accattivante, perché è un pezzo accattivante. Abbiamo pensato di coniugare la mia vocalità che... comunque eclettica, decisamente sì. Eclettica, puoi andare in qualsiasi parte. E forse più così che in qualche modo sento le mie origini, che sono anche di origini tedesche, quindi forse più una vocalità più europea che italiana, e coniugarle con invece le sonorità dei fratelli Anzovino, che sono più, sì. più mediterranee. Molto, molto orientate verso il Brasile, qualche volta. Sì, qualche volta i fratelli Anzovino amano particolarmente questo genere. Mediterranee, assolutamente mediterranee. Quindi avete sposato le due caratteristiche. Sì, esatto. Cosa dice Alessandro? Concordo pienamente, Maurizio. Concordi pienamente. E poi, sai, portare delle parole che cercano comunque di essere di significato più profondo in maniera leggera, è secondo me una soluzione di equilibrio più giusta. Più fruibile più subito. Fruibile, esattamente, sì. Giusto. Hai detto una cosa giusta. Perfetta. Marnit, parlavamo di testi poc'anzi, come nascono le tue canzoni? Cioè è un'esperienza, un qualcosa che vedi, un qualcosa che pensi, ti svegli la mattina, c'hai in mente un qualcosa, che ne so, cioè insomma, voglio dire, come nascono? Se stai facendo la spesa ti viene in mente un ritornello? Allora, queste canzoni del mio primo disco nascevano in un modo, ora sono ovviamente maturata, cioè. E nascono in un altro modo in questo momento le mie canzoni. Quella volta erano, quindi un progetto che è nato 3 anni fa, ho cominciato a lavorare su questi pezzi 3 anni fa, e nascevano da un'urgenza, devo dire, proprio l'urgenza di dire delle cose, e della mia vita, cioè le esperienze di vita e riflessione della mia vita. E devo dire che io ricerco molto le parole, cosa che forse adesso faccio di meno, cioè ricercavo molto le parole, adesso lo faccio di meno perché forse c'è un allenamento, però ho bisogno che le parole rappresentino esattamente il sentimento o il pensiero che voglio esprimere. Non voglio essere approssimativa, altrimenti mi fermo lì finché non mi viene la parola giusta. E sono, cioè in questo ricerco molto, ricerco forse più dentro di me le parole, certo. Quindi devono rappresentare esattamente il sentimento. E poi riguardo alle melodie, ecco, adesso mi vengono magari facendo un giro di accordi alla chitarra, oppure quando così ho uno stato d'animo. L'altro giorno, per esempio, suonando un po' il pianoforte, io non è che sono una strumentista, però per comporre magari faccio così, mi vengono in mente dei giri di accordi, delle cose, quindi faccio delle melodie. Adesso nascono prima le musiche, in questo momento della mia vita. E Amaranto, ad essere sincera, io l'ho scritta pensando ad un'altra cantante. E il ritornello mi è venuto in mente così, all'improvviso, e poi con Marco Anzovino, con il quale ho scritto questa canzone, sono andata da lui e gli ho detto: senti, mi è venuto in mente questo ritornello, e lui ha fatto la strofa. E quindi... che importanza ha avuto il duo, i fratelli Anzovino, nell'arrangiamento totale del disco? Una buona percentuale? Sì, direi fondamentale. Fondamentale, vero? Le loro influenze sono state coniugate con le tue influenze, praticamente. Sì. Sì, sì, e poi anche probabilmente l'intuizione, anche di Remo, che se questo disco è secondo me è il frutto comunque di un interesse reale, cioè non ci siamo uniti per per motivazioni professionali, e quindi secondo me anche per questo che è bello, è come una famiglia che si dà una mano. Anche Remo si è avvicinato a questo progetto perché è attirato da questo progetto, perché gli piaceva. È nato prima da me e Marco Anzovino. Abbiamo cominciato a lavorare alle canzoni e poi Remo ne è stato attratto da questo progetto. Certamente. Vuoi già rompere il ghiaccio se ti senti? The Live, sì, certo. Con questo brano di cui parlavo prima, che è un brano acustico, apro il disco che troverete su iTunes. Come si chiama la canzone? Si intitola Non mi pento. Che tra l'altro è quella che gira anche... Sì, c'è un video in studio che gira su YouTube. Ok. Lui si muove nello spazio, lui diventa desiderio, lui conosce ogni sentiero che lo porta fino a me. Lui mi parla, lui si scalda, disorienta tutti i sensi, lui conosce anche la forma del mio cuore, del mio corpo, e ne segue già i profili, sa tirare a sé i miei fili, quelli di una marionetta, senza applausi, senza fretta. Non mi pento di lasciarmi afferrare, non mi pento perché lui sa di mare. Lui rapisce coi suoi occhi, si destreggia nei discorsi, lui sa bene darli a sorsi e disseta il mio pensiero. Lui lavora la sua terra, ci coltiva l'ambizione, non sa essere felice, si protegge con gli scarti di passioni a basso costo, le divora di continuo con i brividi cattura, son gazzella, lui ghepardo. Non mi pento di lasciarmi afferrare, non mi pento perché lui sa di mare. Sono luce nella notte, non mi pento, avrò cura della notte. Io l'ho scoperta con questa canzone, Maurizio. È stata la prima canzone che ho sentito di Marnit. Sì. Ed è rimasta una delle tue preferite. Ed è rimasta una delle mie preferite, che ti ricordi benissimo. Beh, non è solo questa, comunque, ce n'è anche l'altra. Insomma, che mi piace. L'hai cambiata, però, suonandola qua, in questo momento, perché è molto più grintosa nei 2 minuti e 30 secondi che dura il pezzo. È molto grintosa, è molto forte. Acustica sì, però un acustico... Sì, un po' più tangata. Molto tangata, con molta grinta, con molto... Non dico rock, però con molta grinta. Sempre in fase cantautorale. Qui l'hai dolcita volutamente, secondo me, in fase acustica, con Alessandro alla chitarra. Che è molto più verace, qualcuno ha scritto. Non ci penso, diciamo, faccio quello che è proprio un testo fisso, immediato, 2 minuti e 30 per dire immediatamente quello che pensi. Sì. È così, no? Sì, no, la durata è voluta, cioè nel senso è venuta, sì. Questa canzone era breve, ho detto sì, ma va bene così, non c'è né più né meno da dire. Sì, sì, proprio per quella, doveva essere così e basta. Credo che sia anche il futuro della canzone questo, quello di essere sintetica. Breve, sintetica. In fondo c'era già questa cosa. Sì, beh, sì, c'era già. Ma perché questa tua considerazione? Perché adesso i tempi sono cambiati, c'è tanta fretta, nessuno sta lì più ad ascoltare con le cuffie come si faceva una volta. Io quando ero piccolina stavo vicino allo stereo con le cuffie a ascoltare nel buio le canzoni. Non c'è più questa cosa, si ascolta col computer, si ascolta, quindi bisogna arrivare subito, secondo me, alle persone, altrimenti si rischia di non essere ascoltati. Ma è una da cosa tutti. Positiva secondo te questa? Da un lato, dimmi. Allora, è positiva nel senso che spinge a essere sintetici, e questo arrivare subito al punto. Questo è vero, sì. E quindi questa è una cosa positiva. Ovviamente non lo è per la musica, perché esatto, non permette di essere... non permette di essere diversi da così, insomma, perché ci sono dei generi che invece hanno bisogno di tempo. Di tempo, di un allargamento. Dalla Lombardia, Ellie ti saluta e dice bellissima, da brividi. Mi è piaciuta moltissimo, grazie. Che conosce la forma del mio cuore, dice. Grazie. Ciao Ellie, un abbraccio e buon proseguo l'ascolto del programma di Blu Radio Veneto, appunto con Marlin Calvi, che stasera ci sta regalando emozioni con la sua splendida voce. Io volevo fare una domanda ad Alessandro. Alessandro, hai avuto particolari difficoltà nel recepire la musica di Marlin, oppure tu che sei un mostro di bravura con la chitarra, ti è stato semplice, insomma? Ogni volta che vado via da qui poi ho un sacco di caffè da offrire. Perché dici? No, se continuiamo con questi complimenti, Agostino. Vabbè. No, è comunque l'approccio acustico di base favorisce poi una preparazione dei brani più veloce, che non un disco nasca magari in elettrico e poi va adattato qui in radio. Il fatto che già sono in acustico è comunque stato un passo avanti. Poi Marnit è molto brava. Qua noi in 2 minuti oggi abbiamo approntato il tutto. Esattamente. Quindi... Beh, se abbiamo fatto tutto in 2 minuti è perché lui è bravo, perché io ovviamente le mie canzoni le conosco già. E quindi... Ha ricepito immediatamente. Sì. No? Esattamente. Io volevo chiederti una cosa, Marnit, che mi ha così incuriosito vedendo le tue foto. Raccontami che emozione è stata cantare con Gianni Morandi qualche anno fa. Allora, giusto? Nel 2008 credo. Sì. Allora, devo essere sincera, perché io poi sono sempre sincera, non mi interessa di far vedere. Quella occasione lì è stata sicuramente molto emozionante, perché, caspita, vedi una persona che hai sempre visto in TV e poi lui è veramente famosissimo, cioè... rappresenta la canzone italiana pop leggera, assolutamente uno dei, forse il più rappresentativo, che dura ancora negli anni. Però la modalità con cui mi è capitata questa occasione non è di tipo, diciamo, professionale, ed è per questo che io non lo cito nel mio curriculum, perché non è un lavoro che mi è stato dato, è un'occasione che sapevo che lui faceva cantare, perché lo usa fare spesso nei suoi concerti, cerca qualcuno che canti con lui il duetto Grazie Perché, quello che fa di solito, quello che faceva con Amy Stewart, e quindi io ho detto va bene, vado lì, mi propongo. E allora è stata un'esperienza bellissima, emozionante, però c'è sempre questo fondo che un po' mi dispiace che non fosse un lavoro. Vero e proprio, praticamente. Era solo un passaggio. Un passaggio, sì, un sì. Modo per vedere, c'ero anch'io, volevo sentire. No, ma poi è stato anche, ci siamo anche confrontati, sono tornata lì nei giorni successivi, per cui ho conosciuto il suo entourage, insomma, da questo punto di vista è stato interessante. Bene, ma hai cantato solo Grazie Perché? Sì, vado il duetto con lui. Ma sì. Dov'è, in che location eravate? A Udine, Teatro Tenda, perché lui faceva questa tournée Grazie a Tutti Tour con il Teatro Tenda, sì. Lo portava sì, in tutta Italia. Un disco triplo, mi sembra sì, che fosse. Sì, esatto. Quello con la copertina bianca. Esatto, sì, con lui che apre le braccia verso i suoi fan. Esattamente, che ne ha tanti, tantissimi, sì. Da tante generazioni, un sacco di generazioni messe assieme. Comunque è un'esperienza che ti è servita, insomma. Sì, anche vedere come lui cioè, canta, come beve, come va... sì, una roba normale. Cioè, sì, per lui fa parte... Così come lo si vede in televisione, lui è così. Tranquillo. Quindi è una buonissima impressione. Sì, sembra proprio che sia una... come se fosse a casa sua quando è sul palco. Certo. Bene, bene. Dunque, l'idea di questo disco, tu hai detto che è andata... un disco che si è costruito in qualche anno, 2-3 anni praticamente. Sì. Avevi già i pezzi, avevi già l'intenzione di musicare in questa maniera, o i fratelli Tanzovino ti hanno dato una mano, ti hanno indirizzata verso determinati schemi? Allora, di quello dei testi su cui avevo già un'idea l'ho portato. Quello erano tu, detto, assolutamente. Sì, altri testi sono nati insieme a Marco. Io sono andata un giorno, siccome ci siamo conosciuti attraverso la musica, nell'ambiente musicale, e un giorno mi ha detto, io gli ho detto sai scrivo, mi ha detto mi interesserebbe leggere le cose che scrivi. E così ci siamo incontrati e da là è nata una collaborazione, per cui abbiamo cominciato proprio a fare le canzoni insieme. Lui di solito chiede sempre qual è la, hai già un'idea, però insomma ne è passata di acqua sotto i ponti da quella volta, perché adesso sono molto più autonoma. Sì, autonoma. Cioè sì, cioè loro hanno dato una mano e sono stati importanti, sì, per aprire la direzione, per poi adesso ipoteticamente potresti autoprodurti da sola, cioè fare tutto il time praticamente. Gli arrangiamenti no, non mi gli sento arrangiamenti no, no. Sempre fratello. E anche suonare, ci sono comunque armonicamente sono molto aiutata, perché anche quando scrivo delle cose con degli accordi comunque lui mi mette sempre l'accordo più interessante, ecco. Ma avevo una parterre de roi, insomma, un sacco di musicisti validissimi che sì, hanno partecipato al disco. Essendo un disco di esordiente, vero, mi insegna il maestro, e non è mica facile trovare musicisti così validi. No, sono stata fortunata. E quello è il problema. Il problema è una soluzione trovata splendidamente. E quello è la bellezza, cioè l'importanza di un disco di esordio fatto in questo modo è anche questa, secondo me. Mm-hmm. Con un parteggio, cioè con dei musicisti validissimi che ti hanno dato una mano, ti hanno proprio dato, ti hanno accompagnato, si può dire, se mi posso permettere. Sì, no, assolutamente. Ed è anche una soddisfazione per me che siano stati interessati al mio progetto. Che sono interessati stati al tuo progetto, esattamente, questo è fondamentale. Sì, sì, sì, una grande soddisfazione professionale. Adesso che ti vedo più serena, più tranquilla, sì, sei pronta per farci una seconda canzone? Sì, una canzone tra l'altro molto importante per me, mm-hmm, è La Casa Gialla. Dopo ne parliamo, perché ci sono molte cose da dire sulla Casa Gialla, molto interessanti, dopo ne parliamo più dopo il pezzo. Va bene. Sono nata in una casa gialla, il più bel teatro dei teatri. Un personale colosseo intorno ai prati. Ogni idea libera e sicura a spiegare ogni storia sembrasse oscura. Mi hai comperato un biglietto nuovo per questi viaggi, i tuoi paesaggi. E tu ne hai avuto uno senza ritorno, ma lo so, rinasce sempre il giorno. Creavo me e volavo. Braccia cercavo ideali dagli sguardi mai uguali. Sono nata in una casa gialla, il più bel teatro dei teatri. Ogni cosa diventava un'altra cosa nella fantasia di un bocciolo di rosa. Creavo me e volavo con le tue braccia, cercavo gli sguardi mai uguali. Oh, ogni momento per portarlo via di musica francese ferrovia, catturando i pensieri nel vento. Ideali, tra gli sguardi mai uguali. Mm-hmm. splendida. Forse qualcuno dice che è la più bella canzone del disco. Può essere? Vabbè, a seconda di gusti. Sì. Ah, chi sento? Ciao Marco. Buonasera a tutti. Ciao Agostino. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Marnit. Questa è la canzone più bella del disco, ho detto prima ad Agostino. E rimane la mia preferita. L'avete scritta insieme, ecco. Questa qui, vero? Sì. La musica l'ha scritta Marco con Remo, sì. È nato prima il testo, perché questo disco sono nate prima le parole, poi le musiche sulle parole. Non dimenticherò mai il processo di questo brano, perché il testo eravamo convinti io e Marnit che fosse un testo importante per il suo album, perché raccontava in maniera poetica, secondo me, la sua storia, ma poteva essere la storia di tutti noi, della nostra infanzia e dei nostri ricordi. Non era facile musicarle. Io sono riuscito a musicare le strofe, ma non riuscivo a musicare il ritornello. Una sera mio fratello Remo, pianista, è arrivato a casa mia e io ho fatto ascoltare il provino delle strofe con le parole, così come l'avete ascoltata, ma non riuscivo proprio a trovare il ritornello. E Remo, che in questo è molto bravo nel risolvere problemi, un po' perché è avvocato e quindi forse gli viene facile, ma anche nella musica è molto bravo sulle idee anche degli altri a risolverle musicalmente. Ha risolto questo ritornello che secondo me era proprio, oltre ad essere molto bello, era perfetto per la vocalità di Marnit, che ha anche un percorso vocale sì di musica pop, ma anche di canto lirico, e secondo me in questo brano si sente, mostra anche tutte le sue potenzialità. Certo, si sente alla grande, si sente alla grande, decisamente. Sì, ecco, magari è stato forse anche un po' un caso che questo ritornello, e poi dal testo abbiamo ricavato le parole per metterle sulla musica, uh-huh. Diremo, è stato un po' magico la nascita di questo brano. A volte le canzoni si fatica molto, perché c'è un'idea subito istintiva e poi realizzarla completa magari ci vuole più tempo. Questo è stato un brano che è nata subito la strofa e poi Remo così ci ha aiutato a chiuderlo. Comunque, molto bello. Da come ne abbiamo parlato al telefono poc'anzi, Marco, si capiva, insomma, sì, che questa è una canzone che a te piace tantissimo. Sì, ma quando abbiamo parlato fuori diretta, insomma, prima di entrare dal vivo, che abbiamo accennato un po' a questo discorso, si sentiva proprio il trasporto che mettevi nel parlare di questa canzone, insomma. Sì, ma perché è il trasporto che mette Marnit quando la scritta e quando la canta, si sente, cioè è un'emozione, l'emozione come è contagiosa, no? Quindi anche tu nel tuo lavoro, se hai un'idea bella come quelle che hai, come quelle che svolgi nella tua attività, poi coinvolgi altri e si propaga in qualche modo. Quindi in questo Marnit è brava nel coinvolgerti, perché comunque sa trasmettere grandi emozioni anche nel percorso lavorativo, insomma, in effetti coinvolge nelle sue storie. È quello che è successo a me quando l'ho scoperto la prima volta tramite YouTube, che poi l'ho contattata subito immediatamente. È un'emozione fortissima nel sentire queste canzoni, proprio dettate dalla sua voce, dal suo modo di interpretare. Ma si sente anche quanto siano vere, ecco. Questo sì, era certo il trasporto, perché poi lavorandoci insieme scopre anche tutta la verità delle sue canzoni, che per me rimane la cosa più bella, ecco, del lavorare con lei, che poi è un artista particolare, speciale, perché siccome nel suo vissuto ha ascoltato tantissima musica, molto più di me, in questo mi ha aiutato molto a crescere e ascoltare e ascoltare tanti generi. A volte questa è la bellezza, qualche volta la difficoltà, però con Marnit è bello, perché ho fatto magari dei lavori per musica per bambini e chiami Marnit perché è bravissima per fare canzoni per bambini. Adesso sto realizzando questo disco per Christian Imparato, che è un vincitore di Io Canto, un ragazzo molto talentuoso, e ho chiamato Marnis perché sa scrivere anche per gli altri. Infatti adesso lui si trova allo studio a mixare il disco di Christian, no? Giusto? Sì, non ho potuto essere lì perché sono qua fuori dallo studio, se no certo. Vi farei sentire anch'io un po' di musica, ma non è il caso. Però... è disco nuovo in uscita, io ho letto ottime cose sul disco nuovo, è stato recensito benissimo dai giornali specializzati, dalle riviste specializzate italiane, quindi sai, siamo informati anche sul tuo decorso musicale, che è sempre ottimo. Bene, comunque... quindi insomma era per parlando di Marnit, anche della sua grande capacità di saper fare tante cose, perché questo è raro, ecco, lo dico. Certo. Sembra lo spot pro Marnit, adesso però basta perché esatto, votate Marnit, insomma, adesso siamo vittime di qualsiasi televoto, alla fine devi dire votate non sai che cosa, ma oramai siamo... Comunque Marco, per chi non lo sapesse, insomma, lui è Marco Anzovino, il fratello di Remo Anzovino, che hanno curato praticamente questo disco, la produzione e la realizzazione è tutta tua, vero Marco? Gli arrangiamenti invece con tuo fratello Remo. La produzione artistica l'ho curata direi insieme a Marnit, ecco, sì, insomma, certo. È nostra. E sugli arrangiamenti Remo ci ha dato una grossa mano, insomma, perché ma è un fatto tra me e lui, cioè non riusciamo a stare tanto separati, sì. Perché lui dà una mano a me e poi certo. E viceversa per le sue cose, è come uno specchio, come una persona con cui ti confronti, anche perché sai che ti dice e cerca di darti le idee giuste fino in fondo, quindi in questo Remo è sicuramente un musicista speciale, perché ama talmente tanto la musica che qualsiasi cosa fa ci mette tutto se stesso e cerca di dare sempre il suo meglio, il meglio di sé, ecco. Certo. La prossima volta allora vieni con tuo fratello e ci vieni a trovare. Guarda, volentieri, magari insomma ci sarà anche un'altra occasione con Marnit, sarò ben felice di poter stare insieme. Ecco, questa è una missione di un prossimo disco? Non si sa. Guarda, insomma, tanto abbiamo fatto questo album e siamo felici. La prossima settimana comunque sarà disponibile su iTunes. Abbiamo trovato una piccola etichetta indipendente. Sai, in questi tempi di passi si fanno proprio uno alla volta, certo. Perché non è così semplice, però l'entusiasmo fa superare anche questo momento, sicuramente, che non si è molto incentivati a magari a stampare dischi, però la forza e l'entusiasmo è quella che mantiene viva la musica in questo momento. Certo. Va la bene. Musica per chi si affaccia, per chi comincia come noi, ecco. C'è Maurizio che ha un fiume di domande da farti. La critica ha scritto una cosa molto bella a proposito di nostalgia, ha ripreso un vecchio pezzo di Don Bacchi. Effettivamente, appena accennato all'inizio, c'è questo ideale collegamento con la Casa Bianca di Don Bacchi, poi cantata da Marisa Sania, che è stata onorata dopo un po' di tempo anche da David Byrne dei Talking Heads, dicendo che Marisa Sania ha una voce meravigliosa. Questo piccolo accenno, Marco, a piccolo ideale accenno alla Casa Bianca di Don Bacchi, cosa ti fa sembrare? Guarda, veramente non saprei risponderti perché non ci ho assolutamente pensato. Adesso che mi dici, sicuramente c'è una cosa ideale. Un critico ha scritto Casa Bianca, Casa Gialla, ha ripreso quella tematica là, ma in senso positivo, non in senso negativo, assolutamente sì, positivo. Ma credo che, non so, mi viene da risponderti proprio che ognuno ha una casa anche ideale. Esatto, esatto, posto, esatto. Perché poi questa casa gialla, voglio dire, veramente Marnit, la casa gialla, vive in una casa gialla, ma... In sì, realtà, magari non dare l'indirizzo. Detto, ma che bella questa canzone che parla di una casa dei sogni. Certo. Le canzoni poi, come dire, ogni canzone ognuno se la appiccica addosso. Certo, di là aveva la casa rosa, quindi... ecco, quindi... no? Però in qualche modo è il termine casa che abbiamo forse tanto bisogno di sentirci a casa in questa vita, no? Di sentire i posti, come voi siete adesso in radio, e sentite comunque un posto che sia un po' casa vostra. Chiaro, no? Credo che questo sia Don Bacchi poi è un artista che a me piace molto, quindi mi becchi bene. È sempre stato off limits. Che mi viene in mente, dimmi. Maurizio, che la prima volta che ho fatto ascoltare questa canzone a un nostro caro amico mio di Marnitz, che ha curato la copertina del disco, mi ha detto: sai che questo pezzo mi ricorda l'infanzia. Ho detto: ecco un altro, giustamente, no? Detto perché mi rievoca alla musica di Lupin, Lupin la prima musica, no? Sì. Era in tre quarti, sì. E quindi chi lo sa, dentro questo arpeggio, dentro questo, sì, tema della c'è un po' casa, di tutto, cioè ci sono dei ricordi, quante cose gravitano, cioè, dentro, cioè, ecco. la nostalgia, il ricordo, me l'accordo, bello. E poi è tutto quanto condito dalla voce, dall'atletismo vocale di Marnitz, che sa dosare, che sa cavalcare il tuo pezzo, il vostro pezzo, secondo me. Sì, ma perché poi in questo brano lei non è compositrice della musica, poi in altri brani scrive anche le linee melodiche. Ma come se l'avesse composto lei, perché la costruisce musicalmente, vocalmente, stasera in questo momento l'ha proprio costruita, ha dato un input, come tu giustamente hai detto, dal punto di vista anche lirico. Sì, sono stata anche letta bene nella mia vocalità in questo pezzo, cioè anche questo ritornello, esattamente. Sono stata molto... Ma Marnitz conosce molto bene il suo strumento, cioè è lei che ti dice in che tonalità bisogna farlo, cioè un grande aiuto, insomma, perché conosce lei quando poi la canzone è conclusa. Vedi che pensa, guarda nel vuoto, pensi che sia un ictus o che sia successo qualcosa. E in realtà lei sta pensando a come può realizzarla, poi cioè, si immagina lei che la canta, allora fa le sue prove, poi ti dice sol diesis maggiore. Ah, ecco, perfetto. Sol diesis maggiore, che sono tonalità per i chitarristi, che sì, infatti, ogni tanto... Alessandro è molto contento. Cioè, nel senso, meno male che hanno inventato il barré in questo mondo, perché per suonare con Marnitz è dura, insomma. il barré, per chi ci ascolta, è un modo per semplificare, diciamo, la possibilità di suonare certi accordi, detto, certo. Ecco, così alla buona. Alessandro è stato bravissimo, mi ha seguito proprio... siccome abbiamo fatto le prove in 2 minuti oggi, mi sono sentita insieme a lui anche adesso. Ma io ho sentito proprio benissimo, bello. Marco, ti aspettiamo qui con la tua musica, allora. Guarda, assolutamente, grazie a tutti e un grande abbraccio a tutti voi e viva la musica di Marni. Sempre. E buon lavoro comunque. E grazie. Adesso andrà avanti. Marco, ci sentiremo nei prossimi giorni, ci mettiamo d'accordo, va bene? Assolutamente, un grande abbraccio, buona musica a tutti. Grazie della partecipazione e della disponibilità ad essere presente questa sera con il disco di Marni. È un grande piacere. E complimenti ancora a te e tuo fratello, insomma. Sicuramente lo riferirò anche a lui, i vostri saluti e i vostri complimenti. Ok. Ciao Marco. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Adesso ci fai una canzone, un'altra canzone dal vivo. Però prima mi fai un minutino ancora della Casa Gialla dal vivo. Magari la parte finale, che sì, ne so. Il ritornello, quello che vuoi tu. Il maestro ha girato il maestro foglio. Sta girando. È pronto. Perché me lo voglio risentire. Quest'anno già. Siete pronti? Creavo me. Cercavo ideali tra gli sguardi mai uguali. Ogni momento per portarlo via, di musica francese ferrovia, catturando i pensieri nel vento. Ideali tra gli sguardi mai uguali. Ecco, avete capito perché ho conosciuto Marnitz? Proprio proprio per queste cose qui, per queste canzoni, per questa voce. È arrivato anche il nostro collega carissimo Gilles, che adesso verrà di là con te in studio. Ciao, piacere. E così sentirete anche la voce di Gilles. Allora, mi sento molto a casa qui, perché si entra, si esce come una famiglia, ogni tanto arriva qualcuno, si unisce, viene a tavola. Ma è così, no? Noi la vediamo così nell'intervista, insomma, in maniera molto semplice, un'amicizia soprattutto, così, insomma, tanto per far ascoltare un po' di musica e di parole, insomma, ovviamente. Maurizio. Sì, per ritornare al discorso che ha fatto Marco, ha ribadito Marnet in questo momento con il ritornello che ha fatto fare con Alessandro la sua possibilità di alzare la vocalità e di abbassarla contemporaneamente senza sfasare il progetto del pezzo. Io ho capito così, Marco l'ha ripetuto al telefono adesso, che l'importanza, lui si è trovato bene con te perché non ha avuto nessuna difficoltà a suonare, ad interpretare la tua vocalità, come Alessandro l'ha fatto stasera. Se Alessandro in due minuti vi siete già messi d'accordo, vuol dire che non ci sono più barriere, la tua voce non ha barriere, puoi suonare con chiunque. Grazie, cioè un complimento enorme questo. Secondo me sì, anche lo studio di musica moderna e la musica lirica ti ha avvantaggiato notevolmente, questa è una cosa importante. Sì, sicuramente, un po' come per la danza, per il ballo. Esattamente, esattamente. Adesso però bisogna anche un po' dimenticarsela, certo. Quando si scrivono le canzoni. Sì, sì, certo. Cioè, è interiorizzata, ma non deve essere più così consapevole. No. Adesso cosa ci fai sentire, che voglio sentire? Allora, adesso è proprio un pezzo di cui la musica è stata scritta interamente da Remo, è proprio suo. Completamente. Sì. Il testo invece l'ho scritto insieme ad Alberto Zeppieri, che è un produttore, anche lui è produttore del disco. Sì, lui ha friulano stampato, che abita a Milano. Per te. Adesso sta a Udine. Prima abita a Milano. Sì, fa un po'. Lui è così, si muove. L'ho scritto insieme ad Alberto, che è stato poi la persona che mi ha dato la possibilità di partecipare al progetto di Bruno Lauzi, quindi in fondo è da lui che poi è partita la mia carriera, e se così si può chiamare, nel mio piccolo, una piccola carriera è cominciata la tua carriera, dai. E quindi sì, quindi è scritta con Alberto il testo e la musica di Raymond Zovino, e si chiama Ossigeno e Marea. Scorre, scorre un lento espandersi nell'aria, così il mio sangue non può più dormire, perché nessuno sa chi siamo, ci nascondiamo all'ombra di una regola. C'è chi non sa darsi pace, c'è chi può parlare ma tace, noi respireremo qui ossigeno e marea. Insegui il gusto, il senso della fame, per inghiottir le frasi più proibite, più celate. E se qualcuno sa chi siamo, non si accontenterà di vivere una regola. C'è chi va via e sorride, c'è chi non sa, non decide mai. Cammineremo qui sul ciglio di un'idea. C'è chi non sa e non chiede, chi se ne va e non crede in sé, ma noi vivremo qui tra ossigeno e marea. Na na na na. Altra dolcezza. Questo è il pezzo più importante del disco, secondo me, e ti spiego come arrangiamento. È molto difficile e molto complesso. Io non ho notato, ero incerto se c'è questo, ho scelto poi il movimento, però è molto complesso e molto interessante, ha diverse scale di valori. Adesso me lo spieghi il perché dell'arrangiamento di Remo, così complesso. Non sembra, però è stato fatto con molta fatica nel senso positivo del termine, non è stato un pezzo facile secondo me. No, e devo dire che anche un pezzo in cui ci siamo scontrati molto, cioè, ma fa parte del gioco. Fa parte del gioco. E perché lui mi vede molto con questa vocalità sempre così soave, mentre io ho anche dei lati del mio carattere in cui proprio ho bisogno di dare più forza, più corposità, esatto. E quindi così, però ha avuto ragione lui alla fine, nel senso che questo pezzo è giusto così per il testo, che è un testo complicato, sì, non, esattamente. Un testo proprio molto cantautorale, ai limiti della comprensione, direi. E, poi secondo me le canzoni non vanno tante spiegate, però in realtà è una canzone di speranza. Sì, perché qua l'avete cantata, l'avete suonata in emissione acustica qua Alessandro, ma c'è anche, sì, ci sono anche degli archi. Gli archi sono fondamentali in questo pezzo. Rompono nel senso positivo, cioè intervengono e poi si allontanano e lasciano a te il ruolo di protagonista. Però gli archi è una bella idea di Remo, secondo me. Sì, è stata un'intuizione. Di Remo. È stata un'ottima intuizione. Sì, perché voleva addolcire, lui voleva addolcire, mentre l'altro produttore voleva dare Marco più impulso. Marco è sempre ritmico, molto esattamente. E la strofa è infatti interessante per questo. È molto anche così, ha degli aspetti anche di sensualità. Mentre il ritornello è sempre molto molto anche molto cantabile. E essendo loro anche di origini napoletane, hanno questa napoletaneità, si può dire, proprio nella melodia. Esattamente. Questa è la traccia numero 3, una traccia rischiosa, traccia numero 3. Cioè di solito i pezzi importanti, più complessi, vengono sempre a metà. Tu l'hai messa subito all'inizio praticamente. Sì, è una scelta anche di, pensando all'intero disco, secondo me era un equilibrio giusto, anche se era un rischio, ma... Sì, un rischio perché è un pezzo complesso, dobbiamo dirlo. Ma non è così distante come sonorità da Amaranto, però. C'è un collegamento dove c'è una maturazione nel corso dell'ascolto del disco, però non si distanzia dagli altri. Però è un pezzo costruito bene, pensato enormemente, quindi tu hai parlato di questo scontro, per modo di dire, queste prese di posizione, vuol dire che il pezzo era importante, era fondamentale. Marnit, ti facciamo riposare un pochino, ascoltiamo qualcosa dal disco? Sì, va bene. Prima però due cose, ti porto i saluti della tua carissima amica, Giulia, ti sta ascoltando. Ah, la saluto anch'io. Giulia Daici. Le mando un abbraccio e sono contenta che mi ascolta, ha detto che non sapeva se riusciva, ma... No, è in ascolto, ti sto seguendo, ha scritto, e dice anche Blu Radio Veneto, super come sempre, quindi... Sì, è vero. E poi, ecco, grazie, sta già ringraziandoci. Ciao Giulia, ti aspettiamo col disco nuovo, diamo già questa notizia, sta per uscire fra un paio di mesi, ma insomma ne parleremo. Ah, non lo sapevo questo. Ecco, lo diamo ufficialmente. Allora in bocca al lupo. Crepi il lupo a nome suo. E poi c'è Gil che vuole farti una domanda. Intanto benvenuto Gil. Buonasera Gil. Grazie Agostino, ciao Maurizio. Ciao. Ciao Marnit. Sia che il maestro, sia che il maestro. Sì, sì. Alessandro. È un grandissimo onore, finalmente conosco al mio fianco Marnit. Agostino ne ha parlato tantissimo, ho avuto modo di sentire la tua voce e devo dire che sentirla in diretta si capisce perché Marnit è arrivata anche ad avere dei buoni successi, no Marnit? Sì. Magari poi con seguito mi inserisco un po' nella trasmissione, magari qualcosa. Abbiamo detto, sì, le collaborazioni molto fortunate, nel senso che sono tutti musicisti di grande valore, per me è stato una grande emozione e un grande onore che loro si siano avvicinati al mio progetto, così come disco di esordio. Bene. Ago. Sì, no, allora torniamo al discorso che ho detto poc'anzi, facciamo riposare un attimino anche Marnit e Alessandro ovviamente e ci ascoltiamo la traccia numero 7. Marnit, hai scelto Per le mie ali. Per le mie ali, sì. È un'altra delle canzoni che io amo, fatalità. Pensa che è una delle prime che ho scritto con Marco, quindi è più antica delle altre. Perfetto, ascoltiamo e poi magari ne parliamo. Per le mie ali, Marnit. Slegami dal tempo che imprigiona, srotola il cammino dei miei passi e perdi tutto. Dentro ad una scatola di vetro sento questo volo affannarsi nella mente. Scivola nel petto come ossigeno, leggimi la vita con il ritmo delle mani. Dammi la tua voglia di trovarmi qui vicino, senza lunghi viaggi per sapere chi sono. Bevimi alla fonte di una meta sconosciuta. Suona così forte da investire l'energia. Prendi le parole che mi scivolano via. Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Sono le 22 in questo preciso istante, ancora con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavala e anche con Gilles Facchinelli questa sera per cercare di scoprire il più possibile questa splendida artista che ci viene da Trieste, cioè Marnit Calvi, accompagnata alla chitarra eccezionalmente da Alessandro Mondenese, che ci è venuto a trovare da fargli da spalla la sua splendida voce. Come ti senti adesso? Sei un po' più rilassata, più sì, tranquilla? Sì, assolutamente. Sì, sì, mi sento sei anche proprio bella, bene. Serena, sorridi spesso, quindi vuol dire che stai bene. No, ma anche merito vostro, perché siete, mettete a proprio agio. Abbiamo sentito Per le mie ali, a me è venuto in mente questo, in questo momento. Un famoso film di un po' di tempo fa era musicato da Peter Gabriel, era Birdie, mm-hmm. Le ali della libertà, e tu parli di libertà in questo pezzo. Sì. C'è un collegamento ideale oppure no? No, non c'è, però perché... Io conosco il film, no? L'ho visto. Tra l'altro è uno dei film preferiti di Marco, che ha... quindi non so, forse a livello inconscio. A livello inconscio, cioè, però tu parli di libertà in questo sì, pezzo. diventerei troppo sul personale, però no, diciamo che per di me libertà è in senso tema più ampio libertà, del termine, sì, senso sì, più ampio del termine. Sì. È una cosa molto la vita è per me come un percorso, no? Spesso, cioè più che altro in salita. E quindi è la parte più interessante è la crescita personale. Prima il tema della crescita personale è uno dei temi che mi interessano di più nella vita, perché poi l'evoluzione dell'uomo, no? Ma personale, individuale. Certo, certo, certo. E quindi per fare questo, per sentirsi appieno, per estendersi appieno, c'è bisogno di questa componente che è la libertà. Senza la libertà uno non capisce mai le proprie potenzialità, no? Anche. Io l'ho interpretato, noi della redazione, come una partitura melodica con molte fermate e ripartenze. Quasi lo declami il pezzo più che cantarlo. Non so se, io l'ho sentito così, ho avuto questa impressione. Non so se sei sì, d'accordo. Dei momenti in cui quasi ci si riposa dal cammino. Esattamente, esattamente. Sì, si sente la fatica, una fatica però anche piacevole. C'è una frenata e poi una ripartenza. Questo, la struttura del pezzo, non so se Alessandro è d'accordo anche con me, la struttura del pezzo era incentrata in questo. Non so se l'idea forse sarà partita da questo. Guarda, so. Non è nato così questo pezzo, perché la difficoltà stava nel fatto che già come testo è molto rock. È vero, il testo è rock. E quindi inserirlo all'interno di un progetto di questo tipo non era semplice, per cui ovviamente l'unica scelta da fare era quella di spogliare il più possibile il pezzo nell'arrangiamento. Però in fondo mi rendo conto che non è così, anche questo non si distanzia, pur essendo differente dal linguaggio, certo, anche sì, dal mio linguaggio. Beh, correre verso la libertà è rock sempre, in ogni caso. Sì. C'è poco da fare, più rock di questo. Easy Rider, tanto per cambiare, per dire qualcosa. Marnit, quando tu sei a casa che non hai niente da fare, tra virgolette, quindi raro, cosa ti piace ascoltare, insomma? Quali sono i tuoi cantanti preferiti? La famosa domanda che ormai imperversa sempre in queste trasmissioni live, qual è questa? Cioè, se tu vai in un'isola deserta, cosa ti porti? Tre dischi. Ah, la famosa domanda che ho sentito fare e che trovo crudele. No, la trovo crudele perché sono i tre dischi, tre no? Tre dischi. Allora dici, facciamo anche quattro. Cinque qualche volta. Ma tu sei facciamo, una fedele ascoltatrice. Facciamo anche cinque qualche volta. Dai, però a me no. Sì, beh, facciamo a te cinque, dai, così apriamo l'orizzonte. Allora, quindi se sono cinque, allora sono più contenta. dunque, se fossi su un'isola deserta, dovrei fare una scelta drastica, e quindi proprio l'essenziale. Spesso io ho bisogno di lasciare le parole, quindi perché la musica non è solo canzoni, e le canzoni secondo me sono un po' come un matrimonio, nel senso che la musica è autonoma, le parole sono autonome, però magari trovano un equilibrio nuovo insieme, però entrambe sono autonome, per cui a volte c'è bisogno di avere solo la musica da sola. Per questo io amo profondamente John Barry. Sì, John Barry, sì, okay, che è scomparso tra l'altro pochi anni fa, due anni fa, e mi porterei la colonna sonora sul soundtrack praticamente, che sì, cosa? Della mia Africa. Della mia Africa, ok. Grazie a proposito. Prego, perché gliel'ho mandata. Gli ho mandato un brano. E poi mi porterei I notturni di Chopin. Perché ti dico, questa è la fase dove non ho bisogno delle parole e mi capita spesso. E poi mi porterei il primo disco che ho comprato in vita mia, che era in realtà un vinile di John Lennon, Legend, che raccoglie la raccolta, sì, raccoglie le più grandi meglio successi di tutto. Avevo genio. 8 anni, sono entrata in questo, quindi me lo porterei sicuramente dietro. E poi ecco qua. Arriva lei. Poi riguardo alla mia storia come cantante, perché io nasco come cantante. Però se non sbaglio a te piace un'altra canzone di John Lennon, se non sbaglio, vero? Eh sì. Love. Love is real. Vedi che mi ricordo. Sì. È di una modernità questo pezzo incredibile. Senza tempo. E arriva con una semplicità unica, per cui sì, io adoro questo pezzo. Poi sì, dicevo che riguardo alla mia storia di cantante, una delle più grandi maestre, so che magari qua cadrò per chi non è tanto pop, ma è Celine Dion. Wow. Ah, e qua mi devo stare seduto stavolta, perché di solito mi alzo quando sono devo, io rispetto Celine Dion, però devo stare seduto, assolutamente seduto. Come mai? Perché sai, i gusti adolescenziali non si lasciano mai. Questo è vero. E quindi quando ho cominciato a studiare canto lo sapevo che mettevi lei questo pezzo, lo sapevo che mettevi questo pezzo, quindi... lo sapevo, lo sapevo. E tra l'altro sceglierei proprio questo album, che è Let's Talk About Love, brava, Immortality. Bravissima, finalmente d'accordo. Ok, poi porterei con me un album di Re Monzovino. Bene. Avevo dubbi. Che è Tabù per una serie di motivi. Perché l'album finora che secondo me ha avuto più successo, per il semplice motivo che Remo è molto popolare. Cioè è vero che si occupa della musica strumentale, sì, ma il motivo per cui secondo me piace, sonore, di solito, sì, piace alle persone è proprio perché lui è molto popolare. Le sue sono come delle canzoni in fondo. E Tabù mi piace perché è molto animale e quindi me lo porterei dietro. Abbiamo ancora uno. Ancora uno. Non dico il più importante, è l'ultimo della lista. Solo quello. Mi porterei. Un disco di Marni? No. Porterei The House di Katie Melua. Come mai Katie Melua? Non è famosissima, non è. Però è abbastanza famosa, non famosissima. Perché, la risposta è semplice, mi piace. Ti piace, basta. Ma il motivo per cui mi piace è perché ha un modo di essere cantautrice molto, molto leggero, molto inglese, anche sì, se lei non è inglese. Non è inglese, esatto. Però è nata, cioè è cresciuta a Londra e quindi le sue canzoni sono di una... sono come delle sinfonie. E quindi pensare che una che le sue sono canzoni, perché secondo me è un genio lei, perché riesce a coniugare la complessità di una sinfonia con dei testi di, anche insomma, di spessore. Io avrei scommesso qualcosa di Tori Amos anche. Era in dubbio. Sì, però ce ne sono cinque, non possiamo fare anche sei. Era in dubbio, però Tori Amos potrebbe essere della lista. Sì, è anche uno dei miei ascolti che mi ha portato a anche un po' di confusione su quelle che erano le mie, invece le cose sulle mie corde. Bene. Manni, andiamo in campagna adesso e ti porto i saluti di una band che sarà prossimamente nei nostri studi. Sono bravissimi, Gilles lo sa anche lui. Si chiamano Diversamente Rossi, fanno della musica acustica al loro pane, ma guarda, sono di una bravura unica. Confermo. Bene, allora li saluto anch'io. Il loro disco è stupendo, lo dico apertamente perché ho avuto modo di sentirlo. Io li ho conosciuti al Bruno Lauzi e mi hanno confermato che vengono. E insomma, sono bravissimi e quindi quando magari verranno ti farò sapere. Sì, senz'altro sono interessata. Ma sono bravissimi. Sono poi qui. Magari potreste fare qualcosa insieme, magari che ne so, una canzone cantata con... Cosa dici? Potrebbe essere un'idea. È una buona idea. Sì. Quindi lanciamo... Tanto ci stanno ascoltando, mi sta dicendo troppo buono, troppo... Ciao Salvo, Santo anzi, ciao Santo, stammi bene. Allora Marni, ci ascoltiamo adesso qualcosa dal disco ancora. C'è quella canzone che piace tanto a Maurizio ed sì, è Movimento. Adesso ampliamo, voglio sapere di tutto di questo pezzo, come è nato, come si è costruito, però lo sentiamo prima così abbiamo tempo di decidere, di pensare al movimento. Ok? L'ascoltiamo. Sì. Più tribale, liberato, sensuale, anche stregato a volte, accarezza le mie gambe, un ritmo ripetuto, è cambiato il senso nello spazio, energia che si esprime, che si espande. Ballo, alio ed alia e ballo, muove incerto, cade, impara e diventa esperto. Sconosciuto, alterato il tempo nello spazio intorno a me. Che piloto, che dilato. Sì, abbiamo scelto, noi della redazione, abbiamo scelto Movimento perché è una danza, è una musica popolare e Marnit ci va a nozze su questa musica popolare, anche la voce, poi questo gioco del falsetto, questo gioco di ripetizione finale del ritornello, è bello, è positivo, è Movimento e questo è il motivo per cui l'abbiamo scelto. Ma io sono contenta che tu, cioè che tu ti sia soffermato su questo pezzo, perché secondo me non ha avuto forse la giusta attenzione che mi rendo conto poi col senno di poi che forse meritava. È vero che ricorda un po' quelle canzoni che vengono cantate per la strada, adesso forse di più nel sud Italia. Sì, esattamente. È liberatorio e non c'è solo un registro di testa che magari utilizzo di più nel resto del disco, ma una liberazione anche di una voce più piena. Sì, esattamente. Più corposa. E quindi a me piaceva anche per questo, perché mi dava la possibilità di esprimere, di andare oltre le linee, di non essere racchiusa in un determinato, ma andare fuori libera, esattamente. Infatti, stavolta liberatorio è libera. Come anche una danza, esattamente. Una danza in cui ci si lascia andare. Ti piace proprio tanto te danzare, vero? Sì, ho anche fatto danza, sì. E beh, ma non, come mi piace anche magari anche dipingere, quindi non... Hai tante attività. Sì. Poi insegni anche tu, se non sbaglio. Sì, insegno musica propedeutica a bambini di 4-5 anni. Questa è una gran bella cosa comunque, se lasciamelo dire, perché ti fa veramente onore, insomma. Guarda, poi io insegno, in realtà insegnano loro a me, quindi certo. I bambini sono fantastici e ti fanno veramente riflettere su tante cose che poi tu ti dimentichi quando cresci, no? Certo. O che si tende a dimenticare. Poi dovevi fare una domanda, sì. Poi mi pare. Sì, io esco un attimo, Marnit, dalla cosa tecnica del disco. Ti chiedo sempre però una cosa a livello professionale. Ho visto che hai vinto dei premi, sei arrivata quantomeno tra i finalisti. Mm-hmm. Non ti chiedo, perché sono tanti, qual è il più importante, perché non vorrei metterti in difficoltà. Ti chiedo però di parlarmi del premio Donida. Sì, dunque, io sono rimasta piacevolmente sorpresa dal fatto che il premio Donida, non è che voglio far più pubblicità uno che l'altro, ma almeno lì comunque posso dire di aver partecipato fino alla fine. il premio di Onida 100 cantanti in tutto non lo so, però siamo centinaio. Arrivati in pochi lì sì. A Milano e c'è un iter perché prima si facevano le selezioni a Borghetto in Liguria, quest'anno è un po' diverso, ma insomma comunque è il, secondo me il premio, il concorso che dà più spazio alla musica pop. Di solito nel termine, proprio nel vero senso del termine, c'è una musica che poi le persone ascoltano, c'è una musica più fruibile, più diretta, più vicino alle persone, cosa che secondo me la maggior parte dei concorsi non fa, perché io noto che voglio essere troppo critica, però non si pensa tanto alle persone, al pubblico, e tanti cantano un po' a se stessi. E tante volte le canzoni sono anche un po' pesanti e gli stessi discografici non produrrebbero mai quelle canzoni, quindi mi sembra un po' un'ipocrisia, no? Mandare avanti delle canzoni che nessuno poi metterà in radio, nessuno è. Invece Primo Donide in questo io ho notato che è differente. Esatto, ti ho fatto proprio questa volutamente questa domanda, tra l'altro conferma anche quello che dicevi tu adesso, perché l'ha vinto Chiara Ragnini, se non sbaglio. Mm-hmm. Chiara, e tra l'altro Chiara ha parlato molto bene di te, l'ho trovato. Bene, sì. Sono contenta. Ed è bravissima e vedo e si vede che sta proseguendo proprio a livello professionale, non a caso. Ha vinto questa edizione del 2011, se non sbaglio. Sì. E ricordiamo che Donida è stato l'unico autore cantato da Battisti, visto che Battisti, Donida ha scritto Prigioniero del Mondo di Mogol Donida e La Compagnia di Mogol Donida cantata da Battisti. Sono gli unici due pezzi che Battisti ha cantato non suoi. Quindi dobbiamo sottolineare, quindi è un grande autore, non solamente un autore leggero, ma un autore anche importante su determinati punti di vista. Sì, quindi il premio Donida merita assolutamente. È un autore anche vicino alla gente. Esattamente. Che è quello che dovrebbe essere, insomma, un cantautore, un autore, secondo me. Ci fai ascoltare ancora qualcosa dal vivo o te la tieni per la finale, una canzone? Cosa vuoi? Assolutamente nel finale. Nella finale ci fai una canzone dal vivo. Sì. Vuoi anticiparci qualche altra canzone dal vivo? Facciamo un bis. Sì, sì, sì, facciamo un bis. Abbiamo già deciso che cosa? Sì, Ossigeno e Marea. Indovinate chi l'ha scelto? Così, uno a caso. Allora, Ossigeno e Marea. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. E scorro e scorre un lento espandersi nell'aria, così il mio sangue non può più dormire, perché nessuno sa chi siamo, ci nascondiamo all'ombra di una regola. C'è chi non sa darsi pace, chi può parlare ma tace, noi respireremo qui, ossigeno e marea. Inseguo il gusto, il senso della fame, per inghiottir le frasi più proibite, più celate. E se qualcuno sa chi siamo, non si accontenterà di vivere una regola. C'è chi va via e sorride, c'è chi non sa, non decide mai. Cammineremo qui sul ciglio di un'idea. C'è chi non sa e non chiede, chi se ne va non crede in sé, ma noi vivremo qui tra ossigeno e marea. Na na na na. Sì, ci doveva, cioè, a ci me doveva. Ci doveva, ci doveva, nel senso positivo del termine, ma volentieri comunque. In ogni caso ho notato una cosa, non so se sei d'accordo Marnit, il nostro maestro Alessandro l'ha virata verso la musica sudamericana all'inizio, leggermente mm-hmm, t'ha sì. portato, dopo no, ma t'ha portato, perché lui ama com'era, particolarmente. Com'era Alessandro quella, all'inizio proprio t'ha portato leggermente, io adoro Alessandro. Ma io lo seguo. Allora hai fatto bene a seguirlo. Facci risentire. All'inizio i primi, le note erano molto sudamericane. Eh sì, Gaetano Veloso si introduce in qualche momento. C'è poco da fare. E scorre, scorre, lento. È un modo, un'idea per un arrangiamento diverso. Cosa dici, Marco? Sì, ma si presta a diversi arrangiamenti. Certo, certo. Anzi, diventa interessante. Ultimamente l'ho fatta per le manifestazioni della Barcolana. Mm. Fisarmonica e voce. E vedi, perfetto. Molto bello. E non abbiamo ancora detto, Marnit, i tuoi prossimi appuntamenti, diciamo come concerti, ne hai in vista? O... Allora, il 27 ottobre sono all'Antico Spazzacamino di Trieste. E poi sarò a Radio Rai a Trieste, però non so ancora, e quindi tutte le informazioni le metto su Facebook e su tutte le mie pagine. Quindi le date ancora non le so, delle prossime... Intanto c'è questa il 27 ottobre. Ah, beh, bene. Maurizio. Sì, sai, praticamente farei un programma a Radio Rai, alla sede regionale della Rai di Trieste, farei sì. un'esibizione o qualcosa. Insomma. Sì, un po' come fatto qua, nel senso che showcase acustico e bene, presentazione bene. Acustica delle... e un po' di intervista. No, ti stavo dicendo, ma tu canti anche in lingua triestina, davvero? No, è stata un'esperienza. io non parlo tra l'altro triestino. Ah, no. No, mi sono avvicinata al triestino e sono contenta di averlo fatto, perché comunque ho riscoperto le mie radici con il Festival della Canzone Triestina. Ah. Ho partecipato due volte e l'ultima volta ho vinto, ma non come cioè non ho composto io la canzone, sono stata solo interprete. Quindi non c'entri niente. No, di Sofia e Laura Cossutta, che sono da anni partecipano, sono due autrici triestine, fanno anche altre cose, ma insomma prevalentemente... Era in dialetto triestino? Sì, in dialetto triestino. Dialetto, perfetto. Ci sarà qualcuna che farà qualcosa in dialetto triestino, ma non ti dico niente. Ah, sì? Sì. Avremo modo di scoprirla. No, insomma. Comunque mi esprimo in italiano io. Certo, certo. È la tua lingua. Sì. Bene, bene, bene. Parlaci... Ci puoi anticipare qualcosina, dai, qualche segreto ce lo puoi svelare, il prossimo disco? Allora, no, questo non lo posso svelare. No, perché... non cantarla, però insomma, quantomeno dirci qualche indirizzo, qualcosa insomma. No, posso dire che in questo momento mi sto dedicando soprattutto a fare l'autrice. Mm-hmm. E infatti, come aveva accennato anche prima Marco, sono una degli autori del nuovo disco, di primo disco d'esordio di Cristian Imparato, di Inediti, che esce a novembre. E sono anche molto contenta di aver firmato il pezzo insieme a Paolo Udino, che è uno dei principali autori della musica leggera italiana, perché scrive per Bocelli, ha scritto per Mina, scrive per Minghi e così. E poi alcune delle mie canzoni saranno canzoni che ho scritto insieme a Marco per un film, saranno distribuite da Medusa da febbraio, cioè il film sarà distribuito da febbraio da Medusa, e si intitola Una storia normale, della Collepardo Film di Roma. Bene. Vuoi ricordare i musicisti che hanno partecipato al disco? Sì, allora Marco Anzovino, Remo Anzovino, Alberto Milani alle chitarre elettriche, poi Valeria Pozzo, il violino, spero di non dimenticarmi nessuno, beh, Federico Piccin alla batteria e basta, poi insomma tutti, credo di aver detto tutti i musicisti, e poi chi ha distribuito il disco, che era Alberto Zeppieri. E adesso comunque la mia etichetta è la Ghiro Records, ed è infatti con quella che esce su, su iTunes il mio disco. Tuo disco. Io però qualcosina la faccio sentire in dialetto, eh. No, ti prego. Un secolo fa che la par quasi un quadro dal tempo pittura. Era ancora un giardino in piazza grande e sul mar vicino a un fiato di stanza. Tanti piroscafi pei moli lungo le rive lazzo in porto. Tanti piroscafi che salpa, altri che torna lontan nel golfo. È mezzo italiano però, non è proprio triste. Ma forse perché sono io che non sono capace. Però ricordiamo che questa canzone è arrivata al, prima al 32esimo sì, festival. Sì, ha vinto proprio. Quindi anche lì hai avuto... Beh, ma insomma, se si persevera, non era la prima volta, ma perseverando si ottengono i risultati. No, quello che mi hai chiesto sul, su anticipazioni dischi futuri, allora, da, il progetto, no, non posso dire ancora che cos'è, perché dipende da, da come vanno diverse cose che sono in questo momento in lavorazione. Però posso dirti che mi è venuto in mente, ascoltando anche questo pezzo del Festival della Canzone Triestina, che molti mi, mi vedono sempre molto delicata, molto dolce. C'è questa parte di me però che secondo me è importante che emerga e che nei futuri progetti emergerà, è la parte dove invece sono un po' più, più grintosa. Grintosa. Il lato oscuro. Ma che io non, ma che io non vorrei fosse il lato oscuro, cioè lo voglio non, mettere alla luce più, del sole. E non sarà più un lato oscuro quando sarà il disco nuovo, sarà un lato che, aperto a tutti. Che ovviamente sai dove devi andare a presentarlo, giusto? E beh, certo, qui sì. Beh, ovvio, è il primo posto. Anzi, dove... te lo strappo in anteprima, anche lo voglio, va bene? Certo, sicuramente. Il rock non fa mai male a nessuno. Abbiamo parlato di rock, che è libero, la libertà è rock. Beh, comunque il mio mondo è il mondo pop. Sì, ma il pop e il rock fanno, fanno, sì, vanno a braccetto senza problemi. Mica. Poi non, non... insomma, dipende dall'esigenza del pezzo, no? Ah, certo, certo, certo. Una cosa posso dirla, che... comunque adesso mi viene più facile o comunque sento l'esigenza prima della, di dare importanza prima di tutto alla musica, cioè nascono prima le musiche e poi i testi. Testi non so se questa sia un'evoluzione in meglio o in peggio, però io credo che le canzoni più forti, quelle che rimangono in testa, siano quelle dove, cioè in Italia abbiamo questa tradizione di partire sempre dai testi, no? Sì, vero. E all'estero non è così. Si fanno, però, di solito fanno il contrario, spesso e volentieri all'estero. Però voglio dire, Sting ha scritto per esempio dei testi incredibili. Certo, l'inglese è differente dall'italiano, però insomma, l'idea è quella. L'idea, diciamo, l'obiettivo è quello, speriamo. È arrivato Renato Ferro, che tra poco sarà in diretta qui con la sua musica totalmente diversa ovviamente da, da Marnit, cioè con l'heavy metal, l'hard rock. Però magari G, c'hai un'ultima considerazione, sì, un'ultima domanda? Io volevo chiederti una cosa su Remo Anzovino. Sì. Visto che abbiamo condiviso anche un video, mi hai fatto conoscere di Remo, io già lo seguivo un attimino, però senza nulla togliere a Marco, ovviamente. Mm-hmm. Volevo sapere però una curiosità, cosa dà Remo alla tua musica? Caspita, è una bellissima domanda, però... troppo difficile. No, allora un aspetto non è una domanda per dire cosa ti dà Marco e cosa ti dà Remo, ti faccio solo la domanda perché magari, beh, non si discosta prima... tanto da, anche dalle personalità, no? Certo. Perché comunque Remo è la parte più sognante delle mie canzoni, la parte più lirica. E poi secondo me in alcuni punti in alcuni momenti del disco riesce a raggiungere diciamo la profondità delle parole con la musica, cioè è riuscito a equilibrare la profondità delle parole semplicemente perché secondo me lui nasce dalla musica strumentale. Probabilmente non ti ho fatto, non era una domanda casuale, perché ascoltando un po' il tuo CD, sì, avendo ascoltato anche la musica di Remo, ci trovavo molte affinità. Sì, sì, certo. Bene, siamo arrivati alla fine, Marni, ti hai visto? Un'ora e già, guarda, io starei qua un'altra ora, ma non credo che... faremo un bis con il disco nuovo, va bene? Ti aspettiamo. Va bene, grazie. Messa, guarda che è stato registrato tutto, quindi non puoi... va sì, bene. Sì, va bene, no, ma non... volentieri vengo qua perché mi sono trovata benissimo, mi sento a casa, mi sento a mio agio e poi è anche un modo per potermi raccontare senza nessun problema. Un'ultima cosa, una frase che mi ha colpito molto di questa parte finale, dici: grazie alla mia famiglia per ogni conquista che mi ha permesso di sognare e mi ha insegnato a costruire. Mm-hmm. Hai chiuso il disco così, bellissimo. Sì. Cosa ci fai ascoltare adesso per salutarci? Allora, vi faccio ascoltare, a proposito della differenza tra quello che ha dato Marco e quello che ha dato Remo, questa secondo me è proprio una canzone, perché infatti Marco è un cantautore ed è lui che ha scritto la musica di questo pezzo, si intitola Quello che imparo da te, e abbiamo sposato proprio il testo con la musica, quindi ho scritto il testo e lui ha scritto la musica, ed è, insomma, si sente si sentono i suoi ascolti, perché lui è proprio, gli piace la musica italiana, gli piace il pop, e quindi... Ancora una cosa che non abbiamo detto, i tuoi dati, cioè i tuoi contatti, quantomeno se qualcuno ti volesse chiamare, scrivere, insomma, per avere, anche per avere il disco, dove si può trovare, insomma, oltre che su iTunes. Allora, fisicamente intendo, sì, fisicamente in questo momento si trova in Friuli Venezia Giulia, quindi di fuori del Friuli Venezia Giulia, solo su iTunes, e in Friuli Venezia Giulia solo nei negozi Musical Box. E i miei contatti mi trovate su Facebook, la pagina dei fan, che tra l'altro vorrei tanto che aumentassero, perché io sul mio profilo ho tantissimi contatti, invece della pagina dei fan ne ho di meno, quindi vorrei fare un po' di pubblicità. www.facebook.com/marnitcalvi, tutto attaccato. Benissimo. Poi sono anche su MySpace, su Twitter, si trovano, mettendo Marnit non ce ne sono molte, quindi... C'è anche il numero di cellulare se qualcuno ti vuole invitare a cena? No, quello no. Se qualcuno mi vuole invitare a cena mi deve conquistare. Giusto. Alessandro, come sempre, ti abbiamo fatto parlare pochissimo stasera, ma grazie veramente di cuore. Io lo ringrazio infatti di cuore per l'umiltà con cui si è avvicinato anche alle mie canzoni. Ed è stata una bella esperienza che con un nuovo musicista sentire le mie canzoni. Magari chissà, amplierai qualcosina, magari farai un pezzo anche del disco nuovo. Sì, io lo spero, perché mi piace comunque collaborare con diversi musicisti, non avere limiti. Capito Alessandro, sei scritturato. Sarà fatto, grazie mille. Ale, grazie di cuore di aver partecipato. Grazie a voi. Grazie di aver accettato il mio invito. Gile e Maurizio, sì. Non ci sono. Io volevo fare un gran recupero nel finale. Saluto il maestro Alessandro. Il maestro Alessandro. Maurizio, noi ci sentiamo, ci vediamo, o meglio, la settimana prossima. Sì, noi riprendiamo il solito iter bellissimo del Rock Wave o del Blue Time Live. Uh-huh. Da martedì a giovedì. Giovedì ci sarà Agostino, martedì ci sarà Flavio e il mercoledì ci sarò io. Perché il rock non muore mai, va sempre avanti. The show must go on, sempre, immediatamente e continuamente, perché la radio è live, è la musica. Io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo per quanto riguarda di nuovo una terza compagnia che viene a trovarci per quanto riguarda il musical, questa rassegna appunto Sognando Broadway, ci sarà Life in Plastic, quindi ci sono dei pezzi nuovi, canzoni nuove, insomma, inerenti, poi si avvicinano molto alle Barbie, insomma una storia un po' complicata, ma insomma avrete modo di scoprirla giovedì dalle ore 21 con Agostino, con Maurizio e se ci vuoi essere anche tu. Io sono itinerante, non lo so. Marnit, a questo punto mi resta altro che salutarti. Io vi ringrazio veramente di cuore, grazie dell'accoglienza, dell'invito e delle bellissime domande e di esservi interessati alla mia musica. Ci mancherebbe. Grazie ancora di essere venuta qui a Blu Radio e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ciao. Ciao. Prego. Quello che imparo da te non si può raccontare. All'odore di una pianta che si bagna con la pioggia. Posso soltanto spiegarlo alle stelle sospese, sulle strade buie e ferme, dove può scoprirmi il cielo. Con le lacrime e il sudore ancora su di me, con le mani nelle mani, Dopo un viaggio alle tue spalle restiamo insieme in questo mare, con le onde calme, le onde forti, senza una direzione che non sia condivisione. Restiamo insieme in questo cielo, senza avere più un'età. Quello che imparo da te non si può raccontare al colore di un vestito che si intona coi tuoi occhi. Posso soltanto spiegarlo con lo sguardo sulla pelle, nell'istinto delle labbra, con la voce che sussurra, nella forza di un intreccio tra pensieri, tra due corpi, tra radici, nelle zolle della terra. Restiamo insieme in questo mare, con le onde calme, le onde forti, senza una direzione che non sia condivisione. Restiamo insieme in questo cielo, le tue braccia intorno a me, intorno a me. Quello che imparo da te lo vorrei raccontare, ma si strozza nella gola perché è l'immenso ancora.